Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo ormai già a metà della settimana, oggi è mercoledì, incontriamo con noi l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori, al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, anno nuovo, conti da rifare, mi viene da dire. Sì, sappiamo che tendenzialmente ogni inizio anno riserva sempre qualche rincaro e soprattutto riserva anche vari calcoli da parte di varie realtà, di varie associazioni che prevedono insomma quanto potranno poi pagare le famiglie a fine anno in più rispetto all'anno precedente proprio a causa dei vari rincari. Ora, al di là di quello che poi insomma è una situazione molto soggettiva, quindi dipende da famiglia a famiglia, diciamo che in questi giorni c'è chi insomma si è un po' esibito in vari calcoli e insomma diciamo che varie realtà, varie associazioni dicono che potremmo spendere tra i 700 e i 1000 euro in più il prossimo anno, anzi nell'arco di quest'anno rispetto all'anno precedente. Noi in realtà andiamo un po' a vedere quali potrebbero essere gli impatti sul nostro portafoglio e possiamo anche notare che in realtà registriamo sicuramente degli aumenti per alcuni fronti, ma c'è anche qualche notizia più positiva su altri. Allora, intanto andiamo a dire che potremmo aspettarci sicuramente un aumento dell'inflazione. Sappiamo che l'inflazione è stata praticamente pari a zero quest'anno e insomma ci aspettiamo che i prezzi al consumo, anche insomma al supermercato, possano aumentare. Sicuramente questo potrà andare ad incidere sul portafoglio delle famiglie più di ogni altra cosa. Ecco, noi questo ci aspettiamo un aumento dell'inflazione, anche perché sappiamo benissimo, Francesco, che l'inflazione è anche un segno di vitalità dell'economia, quindi insomma in realtà può essere anche un segnale positivo. Per quanto riguarda invece le cose concrete, cioè quelle che sicuramente, gli aumenti che sicuramente ci saranno, partiamo dai pedaggi autostradali. Questo l'abbiamo visto in tutte le salse, abbiamo visto che in tantissime reti sono previsti degli aumenti, insomma gli automobilisti sono già molto scontenti, sono già sul piede di guerra. In linea di massima avremo degli aumenti che si aggirano attorno allo 0,77%, quindi neanche dell'1%, però diciamo che per chi viaggia e per chi viaggia tanto potrà essere comunque un duro colpo al portafoglio. Delle tariffe postali abbiamo parlato proprio durante la nostra trasmissione di qualche settimana fa e siamo andati ad analizzare anche tutti gli aumenti che sono previsti. In particolare la raccomandata costerà 50 centesimi in più e per le assicurate ci sarà un rincaro di 35 centesimi sulle nazionali e di 60 centesimi sulle internazionali. Per le permissive, plichi e pacchi vari si dovranno spendere dai 10 ai 65 centesimi in più, quindi come abbiamo visto anche l'altra volta proprio durante una puntata appunto della vostra trasmissione, alle poste insomma ci sarà un rincaro che si farà sicuramente sentire. E le bollette sappiamo che quest'anno sono stati annunciati degli aumenti del gas. Esattamente, esatto, sia del gas in realtà anche dell'energia elettrica, diciamo più contenuta energia elettrica attorno allo 0,9%, mentre il gas invece è attorno al 4,7%. Non siamo contenti di questa notizia, però diciamo subito che l'Authority per l'Energia prevede invece che in un anno, partendo dal 2016, quindi tra il 1 aprile 2016 e il 31 marzo 2017, comunque spenderemo di meno, esattamente 8 euro in meno per la luce e 71 euro in meno addirittura per il gas rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi insomma staremo a vedere, ci sono sicuramente degli aumenti da una parte, però rispetto al periodo del 2015, che andava dal 2015 al 2016, avremo anche qualche risparmio. Ma pensando al freddo che ha fatto in questi giorni, mi sa che se avevamo un margine ce lo siamo mangiati tutto. E qua hai perfettamente ragione, perché effettivamente in questi giorni insomma, i termosifoni stanno andando al massimo della potenza, non sappiamo quanto durerà, però effettivamente probabilmente qua i conti li faremo alla fine di questo inverno per ora molto rigido. Ci potremmo attendere degli aumenti anche dalla rete auto, perché i premi sono fermi da 4 anni, si prevede un rincaro dello 0,6%, sia circa un 10 euro in più di prima. Buona notizia dei cellulari invece, perché dal 15 giugno 2017 scatterà la tariffa unica europea, quindi con l'abolizione del roaming, che prevede appunto dei costi molto alti. Quindi con l'abolizione del roaming possiamo pensare che comunque chi viaggia in Europa e chi utilizza il cellulare viaggiando in Europa, insomma, avrà qualche risparmio anche di una certa, di un certo impatto, come il risparmio chiaramente c'è nel grazie poi c'è chi sicuramente, anzi tanti hanno protestato, però con il nuovo canone RAI, che comunque prevede un 10 euro in meno di spesa, per quanto insomma la gente non sia per nulla contenta, tanta gente non sia contenta del fatto che sia stato inserito nella bolletta. I treni, diciamo che per i treni attualmente non ci sono previsti aumenti, sappiamo che questo di solito è una delle notizie dei nuovi anni, l'aumento dei treni, non sono previsti aumenti per Frecciarossa e Intercity. Per quanto riguarda le tariffe sono aumentati, pendolari, sono aumentati regionali. Esatto, e là però chiaramente dipende dalle delibere regionali, e da noi sono aumentati, quindi bene o male. Per i pendolari le notizie, per chi non usa Frecciarossa Intercity, non sono buone. Per quanto riguarda l'istruzione, alcune associazioni prevedono un aumento di circa 45 euro per libri, rette scolastiche, cancelleria, però anche qua faremo i conti magari più precisi, soprattutto a settembre, quando poi ci sarà un ritorno a scuola e quindi anche vedremo un attimo i prezzi dei libri. E per quanto riguarda le banche, qua insomma dobbiamo aspettarci di tutto, non ci sono neanche comunicazioni particolari. Alcune associazioni ritengono che ci sarà una spesa di circa 16 euro in più a famiglia, però Francesco, ecco, diciamo le cose sicure sono i pedaggi autostradali, le tariffe postali e le bollette. Questo sicura, questi tre voci sicuramente dobbiamo aspettarci dei rincari. Per quanto riguarda la spesa al supermercato, invece attendiamo di vedere se ci sarà un aumento dell'inflazione, ci sarà quindi un ritorno a un aumento dei prezzi, e come dicevo prima all'inizio, che non sarebbe una pessima notizia, non lo sarebbe, perché darebbe l'idea di una vitalità, insomma, anche dei consumi, quindi insomma. E di una inversione di tendenza su quello che è l'andamento del nostro paese negli ultimi anni, decisamente pessimo. Vabbè, speriamo. Intanto cerchiamo sempre comunque di trovare l'alternativa per risparmiare, perché magari, insomma, stando lì e leggendo bene le nostre bollette, magari troviamo anche quella compagnia che ci può fare qualcosa di meno. Sì. E sicuramente cercheremo di dare dei consigli utili il più possibile per quello che possiamo anche noi. Bene. Grazie. Grazie a Gianluca Codognato, all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.